9 in punto. La versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon 4 febbraio. Avviso subito che coloro che hanno già iniziato a dire alt, fermo, noi ti conosciamo, sappiamo che tu vuoi difendere gli evasori, dovrebbero, prima di insorgere, questa puntata decidere se ascoltare e prendere nota di un consiglio che io do a tutti. Perché, avendo per l'ennesima volta dimostrato, e questo è l'unico inciso che faccio inizialmente, ieri in televisione A Porta, per chi avesse avuto il fegato di vedermi, che i politici che ieri hanno diviso se stessi nel voto sul decreto del fisco municipale, ancora una volta di fronte a una riforma ordinamentale importantissima come la riforma della Costituzione dopo la legislatura del 2006, ricordate? Che poi fu inabissata nel referendum popolare alle elezioni successivo alle elezioni del 2008. Ancora una volta, anche sul federalismo, dopo 16 anni che ci si confronta, si divide, si polemizza, si dividono senza guardare il merito, perché conta di più la contingenza politica. E per carità, io lo capisco che per molti di voi mandare a casa Berlusconi per il caso Rubi Minetti e l'emergenza democratica nazionale, e non entro nel merito di una vicenda il cui stile mi deprime e che considero squallida anch'io. Ma resta il fatto che quando si tratta di misure così fondamentali come, dopo ripeto, tanti anni che la Lega che la chiedeva è stata accusata di voler la secessione dell'Italia, di voler spaccare il nostro ordinamento con l'attribuzione di imposte proprie che facevano venir meno il principio di condivisione della responsabilità nazionale verso le parti dell'Italia che producono meno reddito, e quindi se dovessimo adattare il nostro sistema al fatto che ciascuno ha tasse proprie, si troverebbero svantaggiati rispetto al nord, dopo tanti anni in cui insieme al professor Ricolfi abbiamo con crescente allarme registrato che a furia di trattare sui decreti attuativi proprio per rispondere all'accusa di chi diceva che la Lega voleva spaccare l'Italia, alla fine il congegno dei decreti attuativi è diventato una cosa in cui per tenere dentro le amministrazioni più lontane dai livelli di efficienza e di equilibrio della spesa pubblica, per tenere conto di tutte le opinioni, legittimamente, dell'ANCI, della Conferenza Stato-Regioni, alla fine il tessuto dei decreti attuativi per la finanza propria dei comuni e delle regioni era diventato, per noi che volevamo davvero tagli, risparmi, efficienza e costi standard, molto lontano dai nostri obiettivi iniziali, e quindi probabilmente non solo con un iter attuativo molto lungo di qui al 2019, ma anche con effetti di, purtroppo nel migliore dei casi, permanenza dei livelli attuali di spesa pubblica e di tasse, e ancora una volta al momento decisivo invece la politica butta tutto per l'aria perché preferisce il gioco dello scontro e dell'interdizione reciproca. Non do giudizi, comunque voi la pensiate su destra e sinistra. Quello che mi sento di dire è che, avendo passato molti mesi e molti anni studiando i documenti, trovo un po' paradossale un paese in cui, per esempio, chi ha difeso l'ICI dicendo che era un errore l'abrogazione totale sulla prima casa votata dal centrodestra, dicendo con motivi che così si faceva venir meno un pilastro della vecchia impostazione della finanza locale ai comuni, oggi ha votato no al decreto per il fisco municipale perché dice che con l'IMU si introduce una nuova tassa patrimoniale. E allora però perché difendevate l'ICI? E così via. Nel merito il confronto ha ceduto rispetto al fatto che ci sono le spallate in corso. Temo che questa sarà l'atmosfera politica nella quale andrà avanti l'esame di tutti i decreti attuativi. Temo che qualunque cosa a questo punto avvenga non sarà il merito di un ordinamento che funziona per ottenere l'obiettivo di maggior trasparenza da parte di chi amministra più vicino ai cittadini e quindi meccanismi di induzione a spendere meno e abbassare le tasse. Devo dire che sono stufo e squallidamente colpito da una classe dirigente che da decenni non fa altro che litigare insultandosi, attribuendo all'altra parte ciò che non funziona nell'impianto pubblico italiano, e poi tutte le volte che si tratta di mettere mani a meccanismi che devono essere condivisi perché si tratta di regole fondamentali, un ordinamento fiscale è una regola fondamentale di un paese e il confine tra la libertà ed esercizio dei poteri pubblici, tutte le volte prevale un insensato spirito da tori che abbassano le corna di fronte alla muleta. Di mezzo, cari ascoltatori, ci andate voi. Il mio appello è questo: invece di continuare a dividerci tra lavoratori a redditi dipendenti e tutti gli altri, grazie alla efficacissima strategia di comunicazione dell'Agenzia delle Entrate, del Ministero dell'Economia, di Equitalia e della Guardia di Finanza, che vi buttano in pasto ogni 2 settimane qualche polpettina avvelenata, tipo quella della settimana scorsa, nella quale, per esempio, chiunque abbia una qualunque idea di inferenze statistiche inappropriate, cioè sia rigoroso nel come si trattano le cifre, non ha potuto che impallidire di fronte al fatto che l'aumento delle contestazioni effettuate dalla Guardia di Finanza nei confronti dei contribuenti, con un più 46% della cifra contestata, sia stato spacciato e sia stato riprodotto su tutti i media, televisioni, radio e giornali, come l'aumento dell'evasione fiscale, quando invece l'aumento della contestazione non è affatto una stima dell'evasione fiscale, che è tutt'altra cosa. E così via. Tutto questo vi fa dividere tra lavoratori e redditi dipendenti e il resto degli italiani additati come evasori e vi fa perdere di vista la realtà, che temo anche col federalismo fiscale, se va avanti così, rimarrà intatta, cioè la realtà di uno Stato ladro che ha procedure, meccanismi, imposte, aliquote, metodi di riscossione, metodi di accertamento, metodi di esazione, metodi di contenzioso che vi spogliano dei più elementari diritti costituzionali, mentre voi continuate a cadere nella trappola di dividervi contro l'evasore, che sarebbe sempre quello che è a fianco rispetto a voi, che siete invece cittadini integermi e che però a quel punto anteponete la divisione, che fa esattamente comodo allo Stato, che divide i suoi schiavi e così li spolpa meglio. So che usando queste parole molti di voi si imbizzarriranno, e allora la mia proposta è questa: andate sul portale di Confesercenti, quindi non sto parlando di un documento di Confindustria, questa è la radio di Confindustria, ma quello che è giusto, andate sul portale di Confesercenti, scaricatevi un documento di 24 sante cartelle che vi invito a leggere, si intitola Balzelli d'Italia, le 100 trappole per imprese e famiglie, è scritto per una volta e in una maniera discorsiva, comprensibile a chiunque, non fitta di rinvii tecnici a norme, regolamenti, circolari interpretative. Lo sapete che nel nostro paese questa è un'altra violazione costituzionale, il fisco procede per circolari interpretative invece che per legge, eh? È chiaro? Eppure lo Stato fa quello che vuole naturalmente nei nostri rapporti. Leggetevi queste 24 cartelle e il mio appello è di diffonderle nei luoghi di lavoro, nelle fabbriche, dovunque ci siano lavoratori dipendenti, nelle scuole, nelle università, insomma, documenti alla mano che rendano possibile a tutti capire in quale delirio viviamo, secondo me è il caso che tutti riflettiamo prima di cadere nella trappola che ci viene ordita e prima di cadere nella cecità che ancora una volta oggi fa scrivere ai giornali molte più colonne sui motivi politici per i quali ieri è andata a finire 15-15, invece che sul merito di norme che non solo quasi nessuno di voi ha messo nelle condizioni di conoscere, ma che molto spesso gli stessi politici che le votano, tranne pochissimi, cioè i tecnici che davvero lavorano ai testi, sono in grado di capire. Per esempio, avere mutato all'ultimo momento, pur di una ricerca di voto, il fatto che per il fisco comunale si è passato alle quote di compartecipazione dell'IVA invece che dell'IRPEF, tecnicamente poteva avere una buona ragione perché l'IRPEF avrebbe premiato sicuramente la parte d'Italia, come ovvio, dove si concentrano redditi pro capite più elevati rispetto all'IVA che si forma sul territorio, inevitabilmente, avvenuto in poche ore, butta per aria anche l'intero impianto della quota di compartecipazione molto ampia all'IRPEF, che invece all'IVA, voglio dire, che era a quel punto destinata alle regioni. Ma potrei procedere per ore con questi esempi. Lasciamoli da parte. Il mio è un invito al metodo a diffidare di questa irresponsabilità della classe politica che antepone sempre il buttare via l'una parte contro l'altra, e non voglio entrare nelle vostre legittime valutazioni, ma che perde di vista il problema vero. Nel nostro paese paghiamo su il lavoro quanto tasse e contributi più della Svezia. La Svezia è sotto il 40%, noi il 43,3%. Vi chiedo, anche a voi che difendete un ampio ruolo pubblico, avete in cambio la Svezia o avete in cambio la vergogna? Avete in cambio la vergogna. E allora, abbiamo dedicato questa trasmissione a questo documento, perché questo documento ci consente di capire alcune cose. Io ho invitato con noi il suo curatore per conto di Confesercenti, si chiama Antonio Giancane, lo saluto, buongiorno Antonio Giancane. Buongiorno, dottor Giannino. Naturalmente lei non è tenuto a condividere i toni vagamente predicatori con i quali io tento di irritare i miei ascoltatori, e quindi io la farò intervenire in sede tecnica, però mi consentite ancora, cari ascoltatori, per qualche minuto di sintetizzarvelo. Leggete i tipi di tasse che questo paese mantiene in vigore, perché io immagino che molti di voi ignorino che c'è ancora la tassa sui gradini, che c'è la tassa sull'ombra, che c'è la tassa sui ballatoi. Che il fatto che noi abbiamo l'imposta per esempio sulle immagini e pubblicità è sconosciuta negli altri paesi evoluti, che paghiamo ancora la tassa sulle paludi quando le paludi sono state bonificate, che c'è la tassa sui raccolti dei funghi, che c'è la tassa sulle pubbliche, sulle suppliche, che c'è la tassa per sposarsi, capite? Comune, se esiste, ci dovrebbe dare servizio, invece no, devi pagare in più. Leggete la tassa sui lampioni, la tassa sui tubi, la tassa sui tumuli, la tassa sulle incinerazioni. Ce n'è veramente di che ridere, ma quello che dovrebbe indurvi meno a ridere e capire che lo Stato, che si giustifica ai vostri occhi con un livello di pressione fiscale formalmente 43,3, se leviamo dal denominatore, cioè il PIL, il 17%, che lo stesso Istat vi ingloba di economia in nero, siamo al 52%, che si giustifica perché ogni volta che si dice abbassate le tasse e abbassate la spesa, come in Germania, i politici insorgono dicendo ci volete far tagliare i servizi, balla assoluta in cui tutti voi, una parte di voi casca regolarmente dicendo ecco che cosa propone chi abbassa la spesa, vogliono levarci i servizi. No, la politica difende questo perché non vuole diminuire di un solo euro le risorse che vi rapina dalle tasche. Leggete oggi sulla Stampa, unico giornale italiano, devo dire la verità, che segue con particolare costanza il filone della spesa pubblica in Sicilia, su cui spesso torniamo da questi microfoni. Leggete oggi sulla Stampa come ancora una volta l'Assemblea regionale siciliana sia stato respinto la proposta di scendere da 90 a 70 consiglieri. Questa è la vera ragione che la politica invoca per dire no tagli alla spesa e no tagli alle tasse. E allora riflettete sul fatto che lo Stato, che si legittima ai vostri occhi per i servizi che vi dà, vi chiede ogni volta di pagare in più per ciò per cui in effetti esiste, perché altrimenti per quale ragione dovremmo essere un paese che c'ha ancora l'imposta di bollo che dà quasi 6 miliardi di euro? E perché dovrebbe aggiungersi poi l'imposta di registro che dà altri 6 miliardi di euro? Perché dovremmo accettare che ci sono tasse sulle quali si pagano altre tasse, perché ci sono imposte sulle quali si applica l'IVA, doppia imposizione, del tutto anticostituzionale, antieuropea? In queste 24 paginette, in maniera sintetica, troverete tutto questo, troverete il meccanismo da rapinatore applicato da Equitalia, per il quale bastano 30 giorni dalla notifica di una cartella per il quale lo Stato si riserva il diritto di aggredirvi nei beni patrimoniali facendovi passare per evasori, vi dà solo 30 giorni. Quali sono i termini che si dà lo Stato per i pagamenti nei nostri confronti? Ricordate poche settimane fa quando vi ho detto che se siete un creditore di una regione dovete aspettare 2 mesi perché la piattaforma digitale sulla quale la regione deve passare per accertare che voi abbiate o meno una cartella, nel qual caso non vi paga, ovviamente è in manutenzione e la manutenzione dura 37 giorni lavorativi. Ecco questo Stato, lo Stato si dà 3 giorni per aggredirvi, ma poi si dà anni per pagarvi. Allora io per il momento mi fermo perché riprenderò a fare questo appello. Pensateci bene, riflettete prima di partire in quarta dicendo la colpa è degli evasori e prima di dire che si fa pagare la patrimoniale ulteriormente agli italiani ricchi. Vi segnalo oggi il pezzo di Vincenzo Visco sul Sole 24 Ore, che evidentemente avendo fatto bene i calcoli, perché Vincenzo Visco li conosce bene, la stratigrafia dei redditi e del patrimonio degli italiani, dice no, la patrimoniale è un'insensatezza perché far pagare i ricchi significherebbe comunque chiedere a una gran parte di italiani una tale quantità di denari che comunque non ci risolverebbe il problema del debito pubblico, perché è solo con la via tedesca, con tasse minori e con spese ordinarie minori che se ne esce. Detto tutto questo, leggetevi questo documento e diffondetelo tra i lavoratori dipendenti, ragionate con loro anche se vi insultano. Io è chiaro, sono un professionista, c'ho una partita IVA, c'ho delle società, pago il mio 70% e sono un po' con le scatole che mi fumano al vedere che nelle riforme ordinamentali i politici preferiscono anteporre l'idea che la controparte è o nazista o comunista, e nel merito non si entra, si fanno schifezze e tutto resta poi nelle mani di una politica che giorno per giorno sa fare solo una cosa: spendere di più dicendo che non basta perché altrimenti vi taglia i servizi, che è una balla, e a quel punto inventarsi qualcuna di queste nuove forme di imposizione e metodi di contrasto che vi fanno cadere nella trappola ballista di uno stato ladro. Viva San Francesco di Sales! Lì però aveva un miracolo a sua disposizione. Noi il miracolo non ce l'abbiamo, tranne che sia consapevolezza, reazione e riflessione sul fatto che, se l'hanno capito anche nella sponda sud del Mediterraneo, che a un certo punto, quando troppo è troppo, io non voglio invocare niente che vada contro la legge, ma a uno stato e a una politica così bisogna reagire. Antonio Giancane, come le è venuta questa forma e questa mano così scorrevole nella stesura di questo rapporto? Voi in realtà ne fate sistematicamente ogni anno ed è un po' una cosa per far svegliare i giornalisti più che per gli iscritti, però in realtà rapporti di questo tipo, scritti con una certa venatura anche di ironia, a lei come vengono? Sono vari anni che curiamo con Confesercenti dei rapporti. Abbiamo deciso di impostarli sul numero 100 e 100 casi di spreco, ne sono stati già fatti 7. Questa volta ci siamo occupati di tasse. Francamente il numero delle tasse curiose che potevano essere inserite era molto superiore a 100. Si è deciso di dare un equilibrio e inserire le più curiose, le più paradossali, assieme a un capitolo particolare relativo al fisco lunare, cioè quel fisco che scende dallo spazio su noi poveri contribuenti, per cui alla fine un 7,40 che nel 1993 l'allora Presidente della Repubblica definì lunare perché contava 31 pagine, oggi le pagine sono diventate 126, e allora c'erano 45.000 parole, adesso le parole sono 149.000, pensate che lavoro devono fare i contribuenti o per loro i commercialisti. E abbiamo deciso di questa forma espositiva perché ci sembrava la più efficace. L'abbiamo diviso in capitoli, come avrei visto, dalle paleotasse, cioè tasse di origine medievale, a quelle esoteriche, le tasse in maschera, che possono essere anche le multe combinate agli automobilisti che, caso strano, nell'ultimo quadrimestre dell'anno si affollano perché il comune deve chiudere il bilancio in pareggio, no? Oppure prelievi surreali come la tassa sull'esposizione della bandiera o tasse macabre che ci perseguitano anche dopo da morti, o il balzello sui lumini dei cimiteri. E tasse sul movimento, quelle aeree, su gru, aeree, plani che volano, tralicci, lampioni, sotterranee, sui tubi, fogne, anche inesistenti. In particolare è sorto un contenzioso perché si pagano le fogne anche quando non esistono. Una legge ha detto che comunque va pagato il contributo per la fogna anche se in fase progettuale da 20 anni. E imposte disumane che colpiscono soggetti come i disoccupati per partecipare a un pubblico concorso, imposte burocratiche, cioè connesse a una funzione come i tribunali o altre, l'ufficio del registro o altre, che sono connesse a una funzione che l'ufficio dovrebbe erogare al contribuente in base alle tasse già pagate, no? E invece no, un ricorso, persino un ricorso avverso a una tassa eccessiva o ingiusta richiesta dal fisco è gravato da una tassa. Quindi questo complesso di tributi vengono a configurare un mondo quasi infernale, rispetto al quale è giusto che il cittadino si renda conto, in qualche caso protesti, vista l'incostituzionalità della maggior parte di esse. Alcuni ascoltatori dicono: se il servizio permanente effettivo, Giancane non la riguarda, ce l'hanno con me, per contro il centrodestra. Vi sbagliate, perché mentre io combatto a viso aperto, non dicendo è scandaloso, semplicemente sono di opinione diversa, io non insulto nessuno. Chi è convinto che ancora di fronte a questa pressione fiscale, a questi livelli di spesa, i veri responsabili, a mio dire, di un quindicennio di crescita bassa nel nostro paese, mentre combatto a viso aperto chi sostiene il contrario, spesso è un politico o un intellettuale o un accademico keynesiano di sinistra, io devo dire la verità. Per chi la pensa come me, 16 anni di promesse non mantenute, sostenute da chi regolarmente ha detto a parole le stesse cose e poi ha fatto aumentare la spesa corrente e difende di fatto oggi l'intangibilità di questi livelli di spesa, di pressione fiscale, è un avversario ancora peggiore. Sì, sto parlando di chi oggi è al governo, tanto per essere chiari. Così vi do la risposta, cari ascoltatori, perché leva credibilità per ciò che non ha fatto a chi la pensa come me, agli economisti che la pensano come me, che nel nostro paese sono minoritari, ma negli Stati Uniti contano un po' di più, e nell'aver fatto le fondamentali della crescita del mondo avanzato in questi decenni sono stati leader, qualunque cosa voi pensiate poi di uno Stato più leggero. Ma ripeto, il fatto che noi abbiamo sul lavoro una somma di imposte e contributi più elevati che in Svezia dovrebbe farvi riflettere su quello che vi danno in cambio. E ripeto, il mio non è un punto di vista al servizio di nessuno, è una fredda richiesta, invece di dividervi, di riflettere su quello che accade. C'è chi chiede dove scaricare queste 24 auree cartelle Balzelli d'Italia. Ripeto, le trovate sul sito di Confesercenti. Ora pubblicità. Allora, stiamo parlando di queste 100 trappole per imprese e famiglie. Abbiamo con noi Antonio Giancane, che è il curatore di questo rapporto di Confesercenti. Molti naturalmente immediatamente dicono: Giancane è d'accordo, ma un conto è la consapevolezza. Molti di noi, abbiamo molti commercianti, artigiani, piccoli imprenditori che ci seguono, dico, si figuri se non ne siamo al corrente. Ma la domanda è: in realtà, anche una volta che ne siamo al corrente, che possiamo fare più che piegarci a ciò che giustamente, poiché ha il coltello del diritto dalla parte del manico, lo Stato ci chiede di fare e ci impone di fare? C'è una maniera di reagire? Da questo punto di vista, Giancane, come osservatore, non solo come collaboratore tecnico esterno di Confesercenti, ma perché lei fa anche il giornalista, in realtà, se dovessimo dare un giudizio dal suo punto di vista su come le associazioni di impresa, la società civile, insomma, le organizzazioni che raccolgono le diverse forme di impresa per tipologia, per storia e tradizione, hanno fatto abbastanza per avere un rapporto maschio, un po' muscolare, vigoroso con una politica che è arrivata a questi livelli di spesa e a queste tecniche di imposizione che davvero ci rendono la vergogna dell'Europa, perché non c'è nessun altro paese che abbia questo tipo di normativa fiscale che cresce di migliaia di pagine ogni anno e che utilizza le circolari per far impazzire i contribuenti, che chiede in media 4.800 euro a chi ha una partita IVA, una piccola impresa, minimo di adempimenti, rispetto al fatto che nei paesi europei sono 800.000 euro. In realtà, secondo lei, le associazioni hanno fatto abbastanza? Ma guardi, aggiungerei a quello che lei sta dicendo anche una constatazione altrettanto surreale. Abbiamo calcolato ben 692 scadenze d'imposta all'anno che riguardano tutti i contribuenti. Va bene, alcuni ce le hanno per intero, altri un po' meno, ma giungiamo a un record mondiale, io credo. Le organizzazioni hanno fatto abbastanza. Io credo che in questi anni si è molto discusso di riforma fiscale. Gli interventi più significativi sono intervenuti probabilmente negli anni 90. In questi anni probabilmente ci si è un po' fermati, un po' perché è arrivata la crisi economica negli anni 2000 e probabilmente c'è stata una minore disponibilità da parte dello Stato di intervenire a riforme serie. Dall'altro perché alcune di queste condotte sono connaturate al sistema fiscale italiano e burocratico italiano. Non dipende dai governi se gli uffici fiscali intasano i contribuenti di adempimenti, dipende da procedure spagnolesche che non è dato trovare in nessun paese al mondo, io credo. Sono dei dati negativi rispetto ai quali le stesse organizzazioni delle imprese trovano difficoltà a intervenire, perché il tuo interlocutore sono quegli stessi uffici che moltiplicano gli adempimenti. Nel caso invece delle tasse surreali, io noterei una cosa: quando si parla di riformare il fisco, ci si dimentica di queste imposte, diciamo così, di nicchia, ci si dimentica di intervenire anche su queste forme impositive assurde. Bisognerebbe probabilmente ragionare su una riforma complessiva della spesa pubblica che consenta di avere le risorse per abbassare la pressione fiscale ed eliminare tutti questi adempimenti. E noi questa cosa la ripetiamo incessantemente, ci sono esempi di grandi paesi che hanno dimostrato che questo è possibile, senza abbattere affatto il welfare, ma riformandolo e concentrandolo laddove esso è più debole nel tutelare davvero la parità dei meriti e dei diritti. L'esempio che facciamo spesso è quello della Germania, si è dato tetti in Costituzione propri, aggiuntivi e indipendenti da quelli europei, che impongono dal 2015 l'azzeramento del deficit, non si può fare deficit più dello 0,35% l'anno del PIL, e limiti di prelievo costituzionale, sempre fiscale, nel senso che ogni anno il Bundestag deve riaggiornare ed elevare la soglia di reddito personale e familiare intangibile per le richieste sia dell'ordinamento a livello federale che a livello di Länder e di municipalità. C'è un tetto fiscale che cresce, la somma di queste due cose ha portato la spesa pubblica dal 57,8% del PIL che era in Germania al 48% attuale, quindi quasi 10 punti di diminuzione di spesa pubblica, e la Germania non è un paese dove non esiste il welfare, e la pressione fiscale a scendere di 8 punti. Questo è uno dei due pilastri del grande rigore tedesco, unito alle intese aziendali di produttività che nei primi anni 2000 hanno cambiato la produttività e il costo del lavoro in Germania, mettendo impresa e sindacato sulla stessa barca e dandosi la mano. Ma il rigore in Germania c'è, dovunque i livelli di spesa pubblica pre-crisi, prima dell'esplosione del debito per fronteggiare la crisi del sistema bancario eccetera eccetera, erano inferiori ai nostri. Solo noi crediamo di doverli giustificare con il welfare come se funzionasse, con i servizi ai cittadini come se funzionassero, mentre invece non è così. Si è collegato con noi Stefano Bessone, che è rappresentante per l'Italia dell'Agenzia di Promozione Economica Cantonale per Ginevra e Berna. Io lo ringrazio di questo, buongiorno Bessone. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Lorenzo Bessone. Lorenzo Bessone, e devo tirare le orecchie naturalmente a chi mi ha preparato la scheda, ma il problema è che noi l'abbiamo invitata perché? Perché mentre io non sono di quelli che nel nostro paese si scandalizzano, ma credo invece molto positivo che un paese come il nostro abbia dei competitor fiscali, cioè degli ordinamenti che sono capaci di essere più efficienti, offrendo servizi e condizioni, esternalità positive per la crescita, e quindi con questo effetto sono concorrenziali, perché io sono a favore della concorrenza tra ordinamenti e tra paesi, non solo tra imprese. E la Svizzera, da questo punto di vista, vicina al nostro nord, la parte più produttiva del paese, è assolutamente concorrenziale. E quindi le chiedo, visto che lei rappresenta l'Agenzia di Promozione Economica Cantonale, in realtà voi che cosa offrite alle aziende italiane che riflettono di fronte a questo bel carico fiscale, a questi begli ostacoli amministrativi, a questa mole di adempimenti? Che cosa gli date in cambio se per caso dovessero pensare di attraversare la frontiera? So che adesso mi rendo ancora più impopolare perché antipatriota, eppure io devo pensare ai tanti imprenditori italiani che di fronte al fatto di dover chiudere una produzione magari non sono in grado di capire che a pochi chilometri più là c'è una condizione migliore. Che gli offrite? Assolutamente. Allora, offriamo due cose. La prima è la piazza svizzera, nel senso che la Svizzera è comunque un paese, una confederazione che ha una finanza pubblica innanzitutto con i conti in ordine, e questo consente quindi di avere anche una tassazione competitiva. Si parla ogni tanto di total tax rate, siamo al 40% in meno rispetto a quello che è la media italiana. Nel senso che siamo, fronte World Bank, era 68% di imposizione fiscale complessiva per le imprese e sul 28% quella che è l'imposizione fiscale in Svizzera per le imprese, quindi un 40%. La interrompo solo per precisare ai nostri ascoltatori che le percentuali della relatoria World Bank sono la pressione fiscale sull'utile lordo di impresa, quindi questo è, l'Italia era 68,5, voi 40 punti in meno, poi tanto per cominciare non è poco, poi... Esatto, e beh, poi la piazza svizzera offre sicuramente delle eccellenti infrastrutture logistiche, sanitarie e scolastiche, ha un marchio che è riconosciuto a livello internazionale, sinonimo di qualità e di affidabilità. Poco prima voi parlavate di un peso della burocrazia italiana, il peso della burocrazia in Svizzera è pressoché nullo, c'è una location che è assolutamente centrale rispetto all'Europa, e la Svizzera quindi non a caso si è classificata in qualche modo al primo posto già da qualche anno al mondo nel report della competitività globale secondo il World Economic Forum. E la domanda è che per chi non è a conoscenza degli accordi sulla doppia imposizione, quindi chi non è un tecnico della materia, siccome vive oramai nel terrore di Stato e pensa che varcare la frontiera già significa essere venuti meno di fronte a tutte le pretese dell'ordinamento italiano, si rischia qualche cosa a farlo per un cittadino, per un imprenditore italiano, allocare lì risorse, cespiti, eccetera? Cosa si rischia? Non rischia assolutamente nulla chi fa le cose alla luce del sole, perché il passare in territorio svizzero a fare un'attività che si faceva in Italia non è assolutamente vietato, e quindi occorre semplicemente attenzione al rispetto di quelle che sono le normative fiscali italiane e svizzere. Però questo, il rispetto della normativa, rientra nel senso civico, io devo dire, del soggetto. No, è chiaro che noi dovremmo in tempi ordinari e in paesi ordinari come il vostro darle per scontato, perché nessuno di noi, tantomeno io, farei una trasmissione per radio per incitare a violare le leggi. Però molti sono convinti che invece oramai siamo tornati un po' come ai vecchi tempi in cui si diceva gli spalloni, andare in Svizzera. Perché lei non se ne rende conto, ma vivere in una condizione come quella italiana, purtroppo tanta opinione pubblica è convinta che, ma come, metti l'impresa in Svizzera, ma non ti arrestano, cioè. Sì, purtroppo c'è stata una, io la definisco una battaglia politico-mediatica, anche per favorire lo scudo fiscale. E quindi sostanzialmente si è sempre vista la Svizzera con il lato negativo, mentre la Svizzera è quel lato positivo che ho già descritto prima, che è il discorso del generale. Oltre a questo, ecco che cosa offriamo noi come agenzia di sviluppo economico di 6 cantoni della Svizzera occidentale. Noi offriamo un servizio che è governativo e assolutamente gratuito per le imprese. Quindi noi affianchiamo le imprese gratuitamente ad avviare la loro attività sul nostro territorio della Svizzera occidentale. Il nostro lavoro, fatto già da anni e anni, ha portato diversi successi. Giusto a fine anno scorso, dicembre, un'azienda internazionale belga, la UCB, ha dichiarato che verrà ad investire proprio nella nostra area 250 milioni di euro in un plant farmaceutico e di ricerca biotecnologica. Ed è ovvio che si attirano grandi investimenti diretti esteri e multinazionali, ma la domanda che le faccio è, in questi ultimi tempi, se può rispondere un po' sinceramente, sì, far capire chi è a casa e ascoltarci, si è assistito a una diminuzione delle allocazioni da parte di capitale e imprese italiane nel vostro territorio, l'effetto anche di questa campagna mediatica, di quello che è accaduto con lo scudo fiscale, o invece una ripresa? Come va l'andamento delle delocalizzazioni italiane nella vostra area? Allora, ha avuto un rallentamento nei 2 anni scorsi legati alla crisi finanziaria, perché mancava la liquidità necessaria per fare gli investimenti. Paradossalmente quella che è stata una crisi finanziaria in realtà ha fatto aprire ulteriormente gli occhi all'imprenditore, che ha capito che ha bisogno di una location che sia altamente competitiva. L'imprenditore oggi ha bisogno di tempo per fare impresa, per dedicarsi all'attività di business, non ad attività di correre dietro alla burocrazia, agli adempimenti fiscali e a tutte quelle questioni che purtroppo distraggono la sua mission imprenditoriale e quindi in qualche modo gli restringono la vision che lui ha sul business e sugli sviluppi economici della sua attività. Quindi paradossalmente c'è stato un maggiore interessamento, perché alla fine si sta un pochino venendo alla resa dei conti su quella che è la scarsa competitività, esatto, del sistema, esatto, italiano. E di un paese che con questi politici, che continueranno a dare la colpa agli uni agli altri, aumenterà ulteriormente la pressione fiscale, visto che il suo PIL è seduto sul tallone di una crescita dell'1%, mentre la parte più dinamica dell'Europa va a ritmi 3 e 4 volte superiori. E di fronte a questo, perdonatemi cari ascoltatori, ma la battaglia se è indegno tizio perché frequenta Caio, o la battaglia perché sei indegno tizio perché invece vi ha messo un tempo in poste più elevate come quelle che paghiamo adesso, diventa secondaria, perché bisognerebbe invece trovarsi rapidamente d'accordo su come fare per evitare che la crescita sia così bassa. Ripeto che il debito pubblico, pur essendo l'Italia quello con la Germania che ha fatto meno deficit aggiuntivo nell'euroarea, continua a crescere, perché questo è quello che sta avvenendo. Chi volesse sapere quanto cresce trova sul portale del mio Chicago Blog e del Bruno Leoni l'aggiornamento ogni 3 secondi. Siamo a più 31.000 euro a testa, 1.886 miliardi di euro è il debito pubblico. Guardatevelo con orologio, io avessi un'azienda lo metterei sotto gli occhi di tutti a far vedere ogni giorno, perché è quella la roba che i politici non tengono mai in considerazione. L'abbiamo regalato a molti politici italiani, parlamentari, leader di partito e che hanno incarichi istituzionali per questo fine anno. L'IBL gliel'ha fatto come regalo di Natale e alcuni di loro erano stupiti nel vedere con quale velocità il debito pubblico continuasse ad aumentare. Non lo sanno neanche loro, questa è la verità. Eppure vi dicono che le vostre tasse servono a gestire i servizi. Lo dico all'ascoltatore che mi ha mandato un messaggio che vi leggo, cari ascoltatori. Ma in Germania ci sono servizio sanitario nazionale e cassa integrazione? Io non me la prendo con lei, caro ascoltatore, non me la prendo con lei, perché lei è il termometro di quale livello produzione di mistificazione sia effetto di uno Stato in cui politica destra e sinistra sono unite nel difendere queste risorse che intermediano. Vi fanno credere addirittura che la Germania, per chi di voi non ha esperienze internazionali, non lo so, non è mai andato all'estero neanche una volta, che lì è il paese evidentemente in cui una specie di giungla sociale. Ma stiamo scherzando? Ma lei ha presente come funziona l'integrazione al reddito in Germania, il Kurzarbeit, che è quello che gli ha fatto avere oggi l'occupazione maggiore dai tempi dell'unificazione? Sì, sì, ci sono. Sono migliori delle nostre, molto migliori delle nostre. Ora le informazioni sulla circolazione stradale. Andiamo a parlare delle strade, quelle strade lì che vi offrono per belle tasse. Belle, eh? Sito Confesercenti, le 100 trappole per imprese e famiglie, leggete le 24 pagine, come equalmente il gas metano che pagate in bolletta arrivi alle nostre frontiere, pagato costa 2 centesimi per i costi di estrazione e trasporto, diventa 20 centesimi naturalmente per le tariffe di chi lo deve trasportare, eccetera eccetera, e naturalmente a quel punto si moltiplica quasi per 4, perché le tasse ovviamente. Oppure informatevi rapidamente dei quasi 22 miliardi delle accise sui carburanti, informatevi delle 1000 tasse che si inventa lo Stato per tirare fuori dall'auto, quasi 60 miliardi di euro l'anno complessivamente, sono tante, veramente tante. Perché bisogna avere una tassa per il PRA? Perché bisogna accettare l'idea, per esempio, che per l'immatricolazione di un'auto a Milano una cosa, le matricolazioni in auto in Germania sono 20 euro poco più, qui deve arrivare fino a 300 euro. Qual è il corrispettivo che può giustificare tanti balzelli in più altrove quasi sempre inesistenti e quando esistono sono nell'ordine del 100%, del 1000% in meno? La rapina lo giustifica, il fatto che sono ladri, il fatto che vi tengono nell'oscurità e voi ci cascate, molti di voi continuano a cascarci. Voi direte che io oggi ho preso un'anfetamina, cocaina, no, io sono semplicemente senza parole, capite? Senza parole, perché poi i politici in televisione sembrano parlare di un altro paese. Ieri sera a un certo punto mi sono un po' girate le scatole e appunto alla lavagnetta mi sono messo a fare la stratigrafia dei patrimoni degli italiani, perché sembra che poi i politici parlano degli italiani ricchi e non ci rendiamo conto che la stratigrafia dei patrimoni italiani non è questo paese di paperoni e neanche da coefficiente di Gini molto elevato. Il coefficiente di Gini è uno degli indici per la dispersione del reddito, cioè quello che misura davvero il fatto che ci siano tantissimi iperricchi e poi una lontananza molto ampia tra chi invece sta alla base della catena della struttura patrimoniale. Sentiamo come la pensano un po' di voi ascoltatori. Cominciamo con Fiorella che chiama da Bologna. Prego Fiorella. Buongiorno. Io volevo dire, nella mia famiglia siamo 2 dipendenti e 2 artigiani, per cui ho tutte e 2 le fasce. Siamo una famiglia che siamo anche d'accordo tutti che le tasse, diciamo, per avere i servizi bisogna pagarle, però devo dire che non è, secondo me, prima sentivo parlare di procedure che sono quelle che permettono, no, niente, le tasse se esistono è perché ci sono leggi che lo permettono che esistano, cioè vuol dire non il Ministero delle Finanze non fa leggi, le fa lo Stato, così come per la giustizia. E tra l'altro tutta una serie di associazioni a difesa o di consumatori o di cose servono, diciamo, soltanto a mantenere loro stesse, perché da una vita le associazioni esistono, sembra che difendano che cosa, senza poi in effetti entrare nel merito di chi ha fatto le leggi, come le ha fatte, e praticamente vivono su questi aspetti. Ormai c'è un insieme, un groviglio che tra tutti questi aspetti avvocati, cose che vivono proprio sul fatto che esistono le leggi che vengono poi utilizzate con questi cavilli, con queste cose, in questa maniera. Questo sì. È il mio pensiero. E quindi però lei dice che bisogna rassegnarsi, perché io, guardi, sono a favore del fatto che... No, non bisogna rassegnarsi. Cioè, secondo me, come dico, bisogna cominciare a capire che anche le associazioni vivono, diciamo, di questi infatti, aspetti. Infatti, le associazioni dei consumatori, con l'albo che hanno, con le risorse pubbliche presso il Ministero delle Attività Produttive, in effetti sono in questo conflitto di interesse, anche secondo me, che lei propone. Grazie Fiorella, sentiamo Luigi che ci chiama dalla provincia di Milano. Prego Luigi. Buongiorno Giannino, io se vuole ho qualche risposta o della carne da aggiungere al fuoco. Aggiunga. Allora, le dico che negli ultimi 2-3 anni, le porto un'esperienza personale, io sono un nano imprenditore, detentore di alcuni brevetti internazionali e credo che lei sappia esattamente che cosa costa solo depositare un brevetto, da svenarsi, va bene, e nessuno ti dà una mano. Comunque, da 2 o 3 anni, a dimostrazione del fatto che non dipende da questo o quel governo, è un pullulare di cartelle esattoriali per 15, 20, 10, 30 euro. Lo dica, cioè, cose, esatto. Cose è assurde, così. Tra l'altro contestazioni su centesimi addirittura che il commercialista calcola sulla base di procedure ministeriali, quindi il commercialista evidentemente non si può inventare nulla. Lei tenga presente che ogni volta che le cartelle esattoriali passano i 100 euro e si fa ricorso, le altre non si fa ricorso e poi le spiego il perché, il ricorso viene puntualmente vinto. Esatto. Dove non si fa ricorso è perché il costo del ricorso fatto attraverso il commercialista è superiore al costo della cartella esattoriale. Io però vorrei chiedere a qualcuno... Luigi, vogliamo dire a chi a casa che questo è il classico esempio di come lo Stato sta costruendo l'aumento delle sue percentuali di successo come numero di contestazioni e come esatto rispetto al contestato. Per questo vi truffano anche in questo. Prosegua Luigi. Questa io a casa mia la chiamo vessazione, anche perché, torno a dirle, siccome si lavora solo con aziende, l'evasione è assolutamente impossibile, perché bisogna per forza di cose emettere le fatture, ma nessuno vuole il contrario. Luigi, se lei continua così, però mi chiamo tutti quelli che sono convinti che l'evasione in azienda non è solo che è impossibile, ma che è la regola. Io lo so che è così, ma se lei utilizza questo argomento non convince, perché qui dovremmo fare delle vere e proprie trasmissioni spiegando che oggi nelle imprese, se tu davvero su una quantità enorme di esempi con i clienti, fornitori eccetera, la fattura non la fai, ma tu rischi una cosa tale che per forza devi starci dentro. Comunque la voglio fare concludere. Ecco, no, è per dire che appunto questi danni, perché il commercialista ha assunto una ragazza in più per gestire queste cose, e questo, mi scusi, ma non è un posto di lavoro produttivo, questo è un posto di lavoro assolutamente improduttivo. Io non ho nulla contro questa ragazza, che tra l'altro è anche simpaticissima e bravissima, ma è chiaro che questa potrebbe essere utilizzata per fare del lavoro produttivo al posto di lavoro improduttivo. Ho una risposta per lei, perché nella mia famiglia ci sono dei fenomeni tipo i guardiani del fumo. Se vuole le spiego che cosa sono. Giù in Basilicata vengono assunte per 4 mesi delle persone alle quali vengono dati tot euro al mese con turni di 4 ore al giorno, 5 giorni alla settimana, per guardare la montagna e vedere se c'è del fumo, utilizzare quindi il cellulare dei pompieri per chiamare l'elicottero che col secchiello viene a spegnere l'incendio che hanno acceso loro. Questo è il classico esempio che d'estate di volta in volta ci fa interrogare sul numero di addetti a forestazione e guardie boschive in alcune regioni d'Italia. La Sicilia è quella che ne ha più di tutte. Molti continuano a chiedermi, ma insomma dove vuoi andare a parare? La mia opinione è questa, ve la dico sinceramente. Molte associazioni d'impresa dovrebbero iniziare a immaginare delle impugnative collettive per i loro iscritti, per garantirli sui rischi che altrimenti ogni singolo imprenditore, contribuente, professionista, lavoratore dipendente, ve lo ricordate il caso del Friuli, dell'imprenditore che ha detto non voglio più fare il sostituto fiscale? Ecco, ne abbiamo parlato tante volte, Fidenato, ve lo ricordate? La mia opinione è che le associazioni di impresa dovrebbero iniziare a fare difesa collettiva di migliaia di loro iscritti, organizzandoli in impugnative collettive nei confronti dello Stato. Fino a che non penseremo a maniere ordinate, legalitarie, in cui le associazioni di impresa si assumono una parità di rischio per mettere la politica con le spalle al muro di fronte a questi livelli di spesa e di prelievo, noi non solo continueremo ad andare più su nella spesa e nel prelievo, ma purtroppo, come vedete, da molti anni non riusciremo ad avere neanche riforme ordinamentali, perché i politici preferiscono darvi in pasto demagogia e le riforme non le fanno. Questa è la conclusione della giornata. Grazie ad Antonio Giancane, curatore del rapporto di Confesercenti Balzelli d'Italia, Fisco le 100 trappole per imprese e famiglie. Scaricatelo dal sito e distribuitelo, fabbriche, scuole, università, mettetelo fuori le sedi dell'Agenzia delle Entrate, perché lì bisognerà poi pensare a che cosa fare, non per i poveri dipendenti, ma per il simbolo che rappresenta di schiavitù e vessazione, e tutti quanti poi a pregare San Francesco di Sales, quello che ci faceva il miracolo, è capace lui di far vedere a Tremonti il sangue che esce dalle tasse che ci rapina. Appuntamento a lunedì, linea giornale radio.